Bene, sveglia, sei appena sveglio, c'è Gio Maria, forse sta chiamati a Pacchizio, ma adesso entro, vabbè. Bene, Meda, avanti. Sì, andiamo dove andiamo. Se vuole entrare sul PMR, entriamo sul PMR, mi scongio Maria. No, adesso vediamo, io devo passare qua. Adesso vediamo, dai. Ma lo senti, sul PMR, che sarà? È Luca? È Luca sicuramente. Dammi un controllo del segnale. Dammi un controllo del segnale, sto. Vai a vedere. Prova, uno, due, se prova. Qua mi sta dando 9.20. 9.20? Bello. Ma qua c'hai il... cosa fa attaccato, sai? L'applicazione attaccato, sai? No. No, non c'ho nulla attaccato. Già va bene, dai. Aspetta, dai, vuoi passare al PMR? Perché sono al PMR. Là, passa lì. Così questo lo spengo. Okay.